Buon pomeriggio, siamo al telefono oggi con Poco Di Giorgio, che è questo cantautore di Stanza Bologna che è uscito con il nuovo album La Vita nel Cosmo. Intanto parti ciao il tuo nome. Ecco, ciao Giorgio, come stai intanto? Tutto bene, guarda, è un periodo sicuramente entusiasmante. Ok, anche perché appunto il 27 settembre c'è il tuo nuovo album La Vita nel Cosmo, ma partiamo un po' da prima. Perché Poco Di Giorgio e per esempio non Tutto Di Giorgio? Sembra un po' riduttivo, come mai questa scelta? Allora, diciamo che il nome non l'ho scelto direttamente io, ma è uscito fuori da varie discussioni con amici, perché fondamentalmente io non sono capace di trovare il mio nome d'arte, nemmeno questo, anche per questo Poco Di Giorgio, perché fondamentalmente c'è una parte di me anche un po' che si fa da parte, ecco, perché comunque quando scegli un nome d'arte non è proprio facile trovarlo. Ho cercato per 2 anni, insomma, ho scritto le canzoni, ho iniziato questo percorso 2 anni fa, ho pensato più che altro a scrivere le canzoni quando poi ho capito che stavo attraversando un periodo di ricerca su me stesso e sulla musica che magari volevo fare da grande, ecco. Quindi il nome è arrivato per ultimo, anche un po' è venuto fuori anche dalle canzoni, che sono comunque canzoni intime, piene magari di dubbi su quello che stiamo vivendo, e ho pensato che magari il nome potesse rispecchiare effettivamente la mia personalità in questo momento. Cioè, magari mi sono nascosto dietro le canzoni, però speravo che venissero più fuori le canzoni, insomma, quello che la tua idea, le tue idee, la tua creatività piuttosto che la tua immagine, ecco. Ok, quindi insomma parliamo direttamente delle canzoni a questo punto, perché La Vita nel Cosmo è un album cantautorale innanzitutto, molto intimo, si vede anche nella musica oltre che nei testi. Questa è una considerazione che fanno in molti, ma io non sono partito da questo presupposto, nel senso, almeno sulla questione cantautorale e dell'intimità, sì, sono intimi testi, però poi la musica in qualche modo non lo è, nel senso che ci sono anche diversi pezzi che hanno un'anima più rock, che è una cosa che mi appartiene molto. Io negli anni ho iniziato a suonare la chitarra, insomma, chitarrista rock, anche metal, diciamo, in adolescenza. Poi ovviamente crescendo ti avvicini ad altri mondi, studi, ho fatto anche un percorso di conservatorio, ho studiato per anni jazz, però poi la musica non sta lì dentro. Quando esci da questi contesti istituzionali magari torni ad essere anche un po' adolescente, quindi mi sono riappropriato anche di tutta una serie di cose che ho sempre amato. Diciamo che il bambino che sta dentro di te è quello che è più fanatico, no? E questa cosa, secondo me, quando sei creativo è una cosa di cui ti devi riappropriare inevitabilmente per essere radicalmente tu quando scrivi, ecco. Ecco, hai parlato di queste tue, diciamo, anime musicali precedenti, che tu hai avuto, hai suonato, perché ha avuto un po' una cosa diversa, sì, però sì. Hai suonato in vari progetti, ecco, di tutti questi, di queste vite musicali precedenti, cosa ti porti dietro e cosa metti in questo tuo album invece solista? Un po' tutto, onestamente un po' tutto, e all'inizio mi sembrava di fare un'insalata, nel senso che ci sono poi tante cose che ti piacciono, tante cose in cui ti identifichi e cerchi di metterle tutte. Poi piano piano devi essere onesto con te stesso e capire cosa sei tu di tutte queste cose, o meglio, quale aspetto di ogni musica che hai suonato è una cosa che è dentro di te ormai e che ti vuoi portare dietro. Comunque ho suonato in contesti, diciamo, indie, suonato con un cantautore indie che è Cimini per molti anni, siamo molto amici ancora. Ti ripeto, precedentemente ho suonato rock negli anni, sono sempre stato molto, ho avuto anche, devo dire, una tribute band di Ozzy Osbourne quando ero adolescente. Quel suono lì molto scuro, soprattutto quello nordamericano, è una cosa che il grunge, anche il folk nordamericano come Crosby, Stills, Nash & Young, tutte musiche che comunque fanno parte di me. Okay, e anche il jazz, che è un'altra cosa che ho affrontato molto negli anni, le canzoni comunque sono molto, hanno strutture modali, diciamo, hanno, non hanno nemmeno strutture convenzionali, alcune a livello armonico sono poco canzoni, insomma. Ecco, forse per questo ancora un po' più particolari di quello che può essere l'indie pop, diciamo, ecco, è una roba un pochino più strutturata, un po' più particolare, ecco, il tuo album che... Io l'avrei definito più indie rock, insomma, però poi ognuno fa le proprie definizioni, giustamente risente anche delle cose familiari, evidentemente questo disco a molti suona come cantautorale. E a proposito di ascoltare, a questo punto ti chiedo magari un brano di La vita nel cosmo, appunto, dicevamo, album d'esordio di Poco di Giorgio, da far ascoltare, in modo che anche chi ci ascolta in radio possa avere un'idea un po' più chiara di cosa stiamo parlando. Cosa ci ascoltiamo? Bene. Ma io ascolterei Atomi, che è proprio forse il pezzo che ha anche il ritornello più rock, più grunge anche, che è una cosa a cui sono affezionato, diciamo, un po' il mio tributo a quel mondo lì. Perfetto, allora ci ascoltiamo Atomi. Siamo di nuovo sempre al telefono con Poco di Giorgio per l'album d'esordio. Si è connesso adesso. La vita nel cosmo. Perché la vita nel cosmo? Di cosa parla? C'è un fil rouge magari che lega le canzoni, o il tema del cosmo è qualcosa comunque che ritorna nei brani? Entrambe le cose, ovvero ho una passione pop comunque, ho questa passione per lo spazio, per il cielo, per quello che è difficile da riconoscere come realtà, quindi questa è una cosa che mi ha sempre appassionato, anche il cielo notturno banalmente. Queste canzoni riflettono molto sugli aspetti umani e quanto siamo effettivamente legati ad essi, quanto magari spesso non ci rendiamo conto di essere presenti in un sistema estremamente più grande, fatto di altre energie, altre forze, banalmente, molto più macroscopico, quindi noi magari focalizziamo la nostra vita, la nostra attenzione sulla nostra quotidianità, e poi però passiamo poco tempo a riflettere sul fatto che noi esistiamo in generale, siamo capaci di pensare, abbiamo una coscienza, credo che sia l'unica forma di vita, almeno che noi conosciamo, ad avere coscienza di esistere, quindi un po' questo poi il titolo è venuto fuori in questa maniera. Diciamo, penso che alcuni titoli delle canzoni riportano un po' anche alla vita nel cosmo, no? Supernova, appunto la title track, La vita nel cosmo, Atomi, hanno un po' questa idea di macrosistema. C'è una terminologia di grandezza in generale, anche perché c'è Formica, che in realtà è molto piccola, però ovviamente la Formica, come già successo per altri artisti, no? Rappresenta... ovviamente non l'insetto, ma noi nella nostra società, quindi anche lì volevo solo dimostrare che ci sono delle forze anche incontrollabili, anche nel nostro sistema, insomma, cioè in quello del mondo, quello che viviamo. Sì, diciamo che nelle tracce c'è un po' di macro e un po' di micro, perché oltre a Formica, Atomi, che chiaramente è la forma più piccola, micro. Pesce rosso che vive in una bolla, quindi in uno spazio molto piccolo, c'è questo un po' questo dualismo, no, tra il macro sistema e il micro delle nostre microvite, appunto, come dicevi in Formica, quindi c'è tanto dentro quest'album, ecco, questo possiamo dirlo. E tu sei di Stanza a Bologna, sei bolognese d'adozione, anche se hai girato un po' per varie città d'Italia prima di arrivare qua. In qualche modo Bologna ha spinto un po' la tua uscita dell'album solista, o è casuale? Ma assolutamente sì, perché ho vissuto a Firenze, dove ho passato l'ultimo periodo del mio essere strumentista. Tornare a Bologna ha significato comunque riappropriarsi, riavere a che fare con uno spettro più ampio di cose da fare. Quindi mi sono ritrovato a suonare il basso in un gruppo, poi vabbè, c'è stato il Covid, sono ritornato in quel momento, quindi ho avuto tanto tempo per guardarmi allo specchio e capire effettivamente chi volevo essere, arrivato in un'età in cui comunque inizi a considerarti una persona adulta, ecco. Sono arrivato a 30 anni a dire vabbè, ma io comunque chi sono? Cioè, cos'è che realmente mi fa stare bene con la mia passione, che è la musica, chiaramente. E quindi mi sono messo a cantare, perché è una cosa che facevo magari sotto la doccia, in macchina, o mi capitava comunque di fare dal vivo nel tempo, però non è una cosa che ho mai preso in considerazione realmente, nonostante fosse poi una passione latente quasi. E adesso ho capito che è la mia passione principale, cioè magari l'ho sempre saputo, però sai, quando sei più ragazzo studi il tuo strumento, la tua vita la tua vita artistica è legata al tuo strumento, quindi ho capito che più che altro non era più così. Possiamo aspettarci che questo progetto Poco di Giorgio prosegua nel futuro, che non si fermi a questo album? Assolutamente no, perché sto scrivendo già il secondo, cioè meglio, il primo era già pronto da un po' di tempo, quindi io non vedevo l'ora che uscisse, poi ovviamente i tempi tecnici a volte possono essere anche abbastanza lunghi, con la mia testa sono abbastanza avanti rispetto a quello che esce oggi. Poi secondo me il discorso è che si è sempre in mutamento, cioè si cambia continuamente. E allora staremo a vedere. Adesso ti faccio l'ultima domanda, visto che sì, sei a Bologna e Radio Città Fucico appunto è una radio bolognese, c'è la possibilità, magari se hai già qualcosa in programma, di vedere anche i tuoi brani dal vivo, o è una cosa ancora che non sappiamo? Sì, assolutamente sto progettando un tour dal vivo da ottobre, probabilmente riuscirò a pubblicare delle date. Perfetto, allora direi che ti seguiremo sui social, Poco di Giorgio. Ti ringrazio infinitamente, ricordiamo appunto Poco di Giorgio, La vita nel cosmo, 27 settembre, uscito per Bock. Ti chiedo, per salutarci, un ultimo brano tratto dal tuo album, La vita nel cosmo, e se vuoi magari anche spiegarci perché lo scegli. Allora, sceglierei Formica perché il pezzo d'esordio è il singolo che è uscito ad aprile e secondo me è il pezzo anche alla fine, che uno degli ultimi che ho scritto, ed è quello forse più rappresentativo, non tanto musicalmente ma quanto l'idea che ho io della mia musica è quella. Vorrei dargli anche una seconda chance, dato che il primo singolo è quello che butti nella mischia, vorrei che in realtà avesse, con l'uscita del disco, avesse una sua seconda vita, ecco. Perfetto, e allora ci ascoltiamo Formica. Grazie mille. Grazie a te, grazie Mauro, grazie a Radio Città Fucico.